nessuno. Due, ti guarda se alla fine fa per tre. Tu guarda anche le spalle perché c'è qualcuno che ti furbo di te, ti furbo di te. Uno, tu non fidarti mai di nessuno. Due, ti guarda se alla fine fa per tre. Tu guarda anche le spalle perché c'è qualcuno che è più furbo di te, più furbo di te. Quando male torna lascia traccia, come quelle onde che riportano la merda sulla spiaggia. Troppa gente parla senza metterci la faccia, accuse propri simili di essere la feccia. Certe parole sono frecce dritte al cuore, digitate su tastiera perdono il proprio valore. Fa la voce grossa dietro schermi, quando nella vita vera restano l'emblema degli inermi. E non c'è tana per sti vermi, si celano nel mezzo a collettivi e vanno avanti a fari spenti. Dove c'è guadagno c'è pretesa dividendi, ma dove c'è la perdita vedi da solo perdi. Non si risolve, lo vedi, non temere, che tanto dalla brace non c'è rischio di cadere. Nel profondo abisso non mi attacco un crocefisso, ma tengo la mia fame come primo chiodo fisso. Uno, tu non fidarti mai di nessuno. Due, ti guarda se alla fine fa per tre. Tu guarda anche le spalle perché c'è qualcuno che ti furbo di te, ti furbo di te. Uno, tu non fidarti mai di nessuno. Due, ti guarda se alla fine fa per tre. Tu guarda anche le spalle perché c'è qualcuno che è più furbo di te, più furbo di te. I pregiudizi come bende sopra gli occhi che ci fanno ragionare solamente a blocchi. Siamo come marionette nelle mani dei farlocchi, guidati da una rabbia che non troverà sbocchi mai. Ci lamentiamo senza mai proporre, ma senza basi cada al suolo di sicuro questa torre. Come in un miraggio bere l'acqua, ti accorgi fine che nella gola sta scorrendo solo sabbia. Polvere nelle mie mani, branco come gli animali, soldo che si compra tutti quanti gli ideali. Fai parte della recita fin quando riesce a dare, ma scordati un copione quando stai per annaspare. Insidia se ne fotte se risulta impopolare, la mia voce un bel badile, tanta merda da spalare. Cani bastonati col talento di guarire, nella tattica comune dello scambio.